A chi dedico il nuovo piacevole libretto, dall'arida pomice orora levigato? A te, Cornelio. Tu solevi, infatti, dar qualche peso alle mie inezie. Già, fin da quando osasti, solo in tutta Italia, la storia intera spiegare in tre volumi, dotti per Giove e laboriosi. Accetta perciò questo libretto, quale che sia, e tu, Vergine patrona, fa che possa durare oltre questa età.